Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. La caratteristica più affascinante, direi anche vincente, del fotovoltaico è la sua semplicità. Niente parti in movimento che possono rompersi o usurarsi. Fotovoltaico infatti vuol dire conversione diretta della luce del sole in energia elettrica, a cui bisogna aggiungere un altro importante fattore: la scalabilità, che significa che il sistema funziona altrettanto bene sia sulla grande scala che sulla piccola scala. E da qui viene fuori la possibilità di una diffusione capillare di questa tecnologia. Ma attenzione, perché il fotovoltaico ha un concorrente con le stesse caratteristiche di base, forse almeno sulla carta anche qualche numero in più, perlomeno in alcune circostanze. Parliamo di una tecnologia che potremmo definire termovoltaica, anche se viene più utilizzato il termine termoelettrica, che però secondo me fa un po' di confusione. Tecnologia questa termovoltaica che di recente ha visto anche segnare un punto a proprio favore con la pubblicazione su Nature Materials, che è un'importante rivista scientifica, di uno studio del gruppo di ricerca del MIT, il Massachusetts Institute of Technology, guidato dal professor Gang Chen, nel quale si afferma che è stato raggiunto con un sistema messo a punto da questo gruppo un rendimento elettrico del 4,6%, che è ancora poco rispetto a quello del fotovoltaico, che è intorno al 15%, ma è abbastanza per richiamare l'attenzione. Cerchiamo allora di capire un po' meglio questa tecnologia con l'aiuto del professor Fabio Inzoli, che è docente di fisica tecnica industriale presso il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano. Buonasera Inzoli. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, io vorrei che come prima cosa lei ci spiegasse che differenza c'è proprio in termini di principio di funzionamento tra quello che è il fotovoltaico ben noto e questo che abbiamo deciso di chiamare per oggi termovoltaico. Beh, le differenze stanno nel fenomeno fisico che è alla base della produzione di energia elettrica. Nel fotovoltaico noi abbiamo la radiazione solare, il sole, la luce che incidendo su opportuni materiali favorisce la produzione di energia elettrica attraverso un gioco di eccitazione degli elettroni che sono presenti nelle bande di valenza del materiale, che passano nelle bande di conduzione. Ecco, diciamo questo, che è l'effetto fotoelettrico. Fotoelettrico, per intendere. Per cui Einstein ha preso a suo tempo il Nobel, no? Sì, e vuol dire che quando un fotone, cioè una particella di luce, incide su dei materiali speciali, riesce per così dire a staccare un elettrone. Questo entra in circolo e diventa energia. Perfetto. Il fenomeno invece termoelettrico o termovoltaico, sì, come l'ha definito, è un fenomeno abbastanza simile, perché si presenta in materiali semiconduttori e trae origine dalla presenza di un flusso termico, cioè di una differenza di temperatura che possa avere a cavallo di una giunzione di due materiali. Quindi anche in questo caso abbiamo un movimento di elettroni e di lacune all'interno di un semiconduttore, che però traggono origine dalla presenza di una sorgente termica, quindi da energia che è di tipo termico. Che può essere poi di provenienza solare questa energia, ma può anche provenire, non so, da una combustione, altra, no? Da qualsiasi altra fonte energetica. L'applicazione che è stata sviluppata dal gruppo dell'MIT parte dall'ipotesi di utilizzare comunque la radiazione solare per avere una sorgente ad alta temperatura e utilizzare un modulo o una cella termoelettrica o termovoltaica per produrre energia elettrica. Ecco, solo un appunto, questo effetto termoelettrico è chiamato in termini fisici effetto Seebeck, giusto? Sì, corretto. Ed è lo stesso, o sbaglio, più o meno della termocoppia, quella che abbiamo in cucina che ci evita di lasciare il gas aperto? Sì, l'effetto Seebeck è stato scoperto all'inizio del XIX secolo e tra l'altro è un effetto che trova applicazione nelle termocoppie, che sono componenti diffusissimi, dei termometri, no? Anche dei termometri che comunemente oggi si usano. Ecco, senta, più o meno come è fatto un pannello termovoltaico? Come si presenta? Allora, noi stiamo parlando di un materiale semiconduttore opportunamente assemblato attraverso un'opportuna soluzione, chiamiamola anche geometrica, dei vari componenti del semiconduttore, cioè della termocoppia. Comunque è sempre un sandwich fra due materiali diversi. È una sorta di sandwich. L'importante ovviamente è poter trasferire energia termica da una faccia di questo sandwich all'altra. Sì. E per far questo abbiamo bisogno di due sorgenti a temperature differenti. La capacità di produrre energia elettrica, quindi di produrre questo flusso di elettroni, dipende dalle differenze, oltre che dalle caratteristiche dei materiali, dalle differenze di temperatura tra le due sorgenti, tra le due facce. Quindi nel caso specifico della soluzione proposta all'MT, loro hanno pensato a un collettore, a una sorta di collettore solare che consiste sostanzialmente in un tubo sottovuoto all'interno del quale vanno a concentrare l'energia proveniente dal sole e creando quindi una sorgente calda che indicativamente dichiarano essere intorno ai 200-230 gradi e sul lato freddo invece, quindi sul lato del sandwich, sono a temperatura sostanzialmente ambiente. E la differenza di temperatura consente il passaggio di corrente, la produzione di energia elettrica. Quindi è un oggetto simile, così, quando a vedersi, a quei pannelli termici, quelli per fare l'acqua calda, ma sottovuoto, con tutti quei tubi simile. Di vetro e dentro delle fettucce. Sì, il concetto del sottovuoto è per ridurre le dispersioni termiche e, nel caso specifico qui, aumentare la temperatura della superficie. Esatto, quindi per aumentare infatti la capacità di raggiungere temperature elevate. Va bene, Inzoli, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, ma continuiamo domani a parlare di questo argomento, se lei è d'accordo. Sicuramente, sono a disposizione. Appuntamento a domani, allora. Vedremo risvolti pratici di questa tecnologia. Buona serata.